Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone, un'ora insieme. Di cosa parleremo? Ve lo diciamo tra un po', intanto godetevi questo brano. Cominciamo con questo bel sound della puntata di Zibaldone, questo 24 maggio. Lui si chiama Tidian Tiama, spero di pronunciarlo bene. Yangue è il brano che ci siamo appena ascoltati. Do subito il bentornato e il buon pomeriggio al nostro caro Banzo, al secolo Enrico Banzola. Come stai, Banzo? Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Sto seduto, quindi sono pronto per un'altra puntata di Zibaldone e poi annunceremo appunto il tema principale di oggi, ma passo a commentare la canzone che abbiamo appena ascoltato, che è veramente un bel inizio. Hai già detto il nome dell'artista, Tidiane Thiam, questo chitarrista proveniente dal nord del Senegal, che ha proposto questo nuovo disco che è uscito il 17 maggio, quindi fresco fresco per Sahel Sounds, e si intitola Africa Yonti, non so la pronuncia sia corretta, che in lingua Fula o Pular significa Africa e il momento. Quindi il suono l'avete sentito, le coordinate più o meno sono queste, è finger picking chitarristico con riferimenti al folklore, a temi del folklore musicale Fula. Per me una scoperta veramente sorprendente, ho amato tantissimo questo disco, ho andato a recuperare anche le sue uscite precedenti e vi consiglio di farlo se amate questo stile. Si tratta principalmente di musica strumentale, come ho detto, qui avete potuto avere un'idea, e in questo disco la collaborazione principale, diciamo che si è sentita meno in questo brano, però alle percussioni c'è Maktan Diaye, che proviene dall'ambito hip hop, quindi dà una coloritura un po' strana ai brani, un po' inedita, perché ci sono anche delle aperture di field recordings che in questo contesto sono un po' inattese. Comunque, un bel inizio, senz'altro un album che vi invito ad approfondire. Eh sì, un bel inizio, grazie Banzo. Oggi dicevamo di cosa parliamo: elezioni catalane, quali scenari? Parliamo di qual è la situazione dopo il voto catalano dello scorso 12 maggio, di che cosa succederà a Barcellona. Sembra che sia finita una tappa, un ciclo politico, quello segnato dal movimento indipendentista, dal cosiddetto process sovranista. Sarà proprio così, insomma, e che ripercussioni ci saranno poi sulla governabilità in Spagna, il governo di Pedro Sánchez, che si basa proprio sui voti delle formazioni indipendentiste catalane. Insomma, tante sono le incognite, ne parliamo con due attente osservatrici della realtà catalana e spagnola, come la storica Paola Locascio e la giornalista Elena Marisol Brandolini, che tornano a farci visita. Banzo, però, prima di andare a parlare di Catalogna e di Spagna, di politica, anche delle prossime elezioni europee, insomma, e di tutto quello che è successo e potrà succedere, andiamo ad ascoltarci un secondo brano, che in questo caso è una news musicale che ci arriva dall'Italia. Esatto, e il titolo potrebbe anche adeguarsi agli scenari politici della Catalogna, perché il brano che andiamo a sentire si chiama Le cose strane, no? Un po' tirato per i capelli, che proviene da un album dello stesso titolo, quindi è la title track. Lei è Valeria Sturba, che è una violinista, ma in realtà suona di tutto, perché cioè, ho trovato qui una descrizione dei crediti del disco, fra gli strumenti appare anche il flauto da naso, ho dovuto andare a cercarlo. Incredibile. Sì, come ultimo strumento. Comunque diciamo che i suoi principali strumenti sono il violino e il theremin, che suona negli opopo, li sbaglio sempre, opopoio, hanno un nome difficilissimo, nei quali suona con Vincenzo Vasi, che è presente anche in questo disco, che presenta una folta schiera di collaboratori: Fabio Rondanini, Enrico Gabrielli, Stefano Pilia, Bruno Tommasello, Filippo Sala, Giuseppe Franchellucci. Li ho citati tutti senza specificare gli strumenti, perché sennò gli facevo un torto, diciamo. Sì. E come stile è molto difficile da definire la musica di Valeria Sturba, perché viene definita sperimentale, cantautoriale, e sì, però no, a me sembra quasi, mi viene da dire, un pop post progressivo. Se adesso sentirete il pezzo, non so se questa definizione gli può andare bene, perché sento un'evoluzione alla lontana di un discorso che potrebbe essere considerato progressive, ma si muove in territori diversi. Ma guarda, la cosa migliore è andare a sentirci il brano Valeria Sturba, Le cose strane, e poi cominciamo a parlare di Catalogna e di Spagna con Paola Locascio e Elena Marisol Brandolini. Giovanni, che cosa vuol fare? Lui vorrebbe sradicare le tue convinzioni ad una. Aprirti la testa con una morsa. Lui dice che ci troverà. Eccoci ora qui in diretta per parlare della situazione politica catalana, spagnola, dopo il voto dello scorso 12 maggio, gli scenari futuri, insomma ci sono tante cose di cui parlare, tante incognite da risolvere. Ci accompagnano quest'oggi ed un gradito ritorno Paola Locascio, professoressa di storia contemporanea presso l'Università de Barcelona. Paola, buon pomeriggio, bentornata. Buon pomeriggio a voi e grazie, contenta di essere qui un'altra volta. Elena Marisol Brandolini scrive per tanti giornali in Italia, ha collaborato con tanti media, ora la potete leggere sul Messaggero, sul Manifesto e anche Fanpage, parlando appunto di quello che succede al di sotto dei Pirenei. Marisol, bentornata a Zibaldone. Grazie, buongiorno a voi. Cominciamo con te Marisol, se vuoi brevemente una prima battuta da parte di entrambe, diciamo su lo scenario, un'analisi delle elezioni catalane e gli scenari possibili, proprio per mettere sul tavolo alcune delle questioni di cui poi parleremo insieme a voi nei minuti successivi. Allora, io credo che le elezioni di questo 12 maggio effettivamente segnino l'apertura di una fase diversa in Catalogna, e siccome le elezioni catalane hanno sempre una relazione stretta col quadro politico spagnolo, e in questo caso più di altre volte, avranno delle conseguenze anche sulla legislatura. Di certo la notizia è che l'indipendentismo non somma più la maggioranza assoluta, questo dopo 12 anni, e questa è la notizia principe, e poi che i socialisti sono usciti vincitori da questa competizione elettorale, vincitori in modo molto forte sia per seggi che per voti. Quindi quello che ora si prospetta, già si comincia a vedere dalla crisi che ha investito Esquerra Repubblicana de Catalunya, che fa parte del gruppo dirigente dimissionario e comunque terranno un congresso a novembre, quindi dovranno ripensare la loro strategia, perché Esquerra Repubblicana ha perso in modo molto importante, ha perso 13 seggi tornando ad essere il terzo partito. Non che Junts con Puigdemont sia andato specialmente bene, è arrivato secondo, Puigdemont ha vinto la sua, diciamo, la sua contesa personale, ma non ha vinto il suo partito, i socialisti, e quindi il suo ritorno più volte annunciato e questa volta reiterato non si sa bene a cosa possa essere legato su una maggioranza che in questo momento non c'è in Parlamento. E quindi gli scenari non sono molti. Ritorno alle elezioni, che però credo non sia desiderio di nessuno fare, perché non credo andrebbe molto meglio. Già c'è stata una partecipazione abbastanza bassa, in questo caso inferiore al 60%, però non credo che ci sarebbe, diciamo, un ritorno di fiamma da parte di una parte dell'elettorato indipendentista che non è andato a votare, e quindi non credo che su questo cambierebbero molto i rapporti di forza. Tuttavia è una possibilità, se non si trova un'intesa. Un governo a guida socialista con Salvador Illa, guida socialista che può essere anche fatto insieme ai Comuns, la marca catalana di Sumar in questo momento appunto in Catalogna, che potrebbero governare in minoranza con l'appoggio esterno di Esquerra, perché mi sembra difficile ipotizzare invece un tripartito nel senso classico di Esquerra, Comuns e socialisti. Beh, ti ringrazio perché hai riassunto benissimo veramente i temi principali, io credo, da cui partire in questa conversazione con voi. Paola, ti passo la parola a te e aggiungo anche una cosa, no, a partire da quello che ci ha raccontato Marisol. La fine di un ciclo politico segna il voto del 12 maggio 2024 in Catalogna, che era cominciato, insomma, il cosiddetto procés indipendentista, no? Cominciato tra il 2010 e il 2012. È proprio così o in realtà non è ancora chiaro? Come la vedi? Allora, prima di tutto sono molto d'accordo con tutte le cose che ha messo Marisol, diciamo, sul tavolo. Rispetto alla domanda che tu mi fai, io credo che non c'è dubbio che una certa fase sia chiusa, però è anche vero che chiedersi se il processo è finito oppure no, così, diciamo, come una domanda semplice, mi sembra un po' riduttivo, perché fondamentalmente uno si deve chiedere cosa sia stato il processo. Il processo è stato tantissime cose, fra queste anche una concorrenza, diciamo, terribile negli ultimi 10-15 anni, io forse addirittura allungherei ancora di più, fra diciamo, i due grandi partiti nazionalisti in Catalogna, che sono appunto il mondo, diciamo, convergente da una parte e Esquerra Repubblicana. Quindi da questo punto di vista c'è anche un altro cambiamento di ciclo che ha a che vedere con il ritorno a un'egemonia, diciamo, molto insomma chiara del mondo convergente dentro diciamo del nazionalismo catalano. Quindi se è finito non è finito, forse è finito, però diciamo che una parte di questo processo, diciamo, ha compiuto la sua funzione. Dico questo anche perché prima Marisol diceva che tutto sommato Carles Puigdemont non ha vinto la sua scommessa personale. Io credo che ci sia sicuramente una parte di scommessa personale, però ci sia, diciamo, appunto una parte che ha a che vedere su a che vedere con quale componente del nazionalismo catalano sia prevalente, e mi sembra che da questo punto di vista, insomma, ci sia stata una risposta. Aggiungo un altro elemento d'analisi che è ovviamente l'emergenza di Alleanza Catalana, che è diciamo la seconda estrema destra in Catalogna. C'è, diciamo, un forte raggruppamento di Vox che non perde voti e non perde neanche seggi, e entra, diciamo, in scena una nuova estrema destra che per adesso, diciamo, da un punto di vista parlamentare è molto piccola, però per 3.000 voti, diciamo, poteva essere esattamente il doppio, e che è, come dire, la versione dell'estrema destra islamofoba, razzista, eccetera eccetera, però che deriva dal, come dire, dal malessere del nazionalismo catalano più classico. E questo secondo me è anche un elemento di cui tenere conto, perché appunto diciamo che il Parlamento catalano da questo punto di vista è probabilmente l'unico insieme alla Spagna ad avere due estreme destre. Alleanza Catalana con due seggi, lo ricordiamo anche per i nostri ascoltatori, e Vox che praticamente ha mantenuto gli 11 deputati che aveva già conquistato nel 2021. A questo proposito cominciamo magari da te, Marisol, la destra in Catalogna, perché anche il Partito Popolare ha fatto un balzo ritornando praticamente quasi ai migliori risultati del periodo pre-Procés. Ecco, come spieghi questo, diciamo, questo recupero della destra spagnolista da una parte, ma anche con il fattore Alleanza Catalana, una nuova estrema destra di marca indipendentista in linea con anche quello che sta succedendo fuori dall'Europa? E se su questo, introduco un altro tema di dibattito, ha pesato e fino a che punto la legge di amnistia e la formazione del nuovo governo Sanchez, del governo attuale, a novembre dello scorso anno, con un patto evidentemente con i partiti indipendentisti sia catalani che baschi. Ma dunque la destra in realtà sì, è cresciuta, però ricordiamoci che Ciutadans, che era un partito di estrema destra in Catalogna, un po' diversamente nel resto della Spagna, però nel 2017 Ciutadans è un partito di estrema destra, non esiste più, quindi il Partito Popolare si è praticamente preso un po' tutti quanti i voti, ecco, di questa parte di destra che non c'è più. Quindi la crescita è dovuta anche a questo. Io credo che, dunque, siamo in un'epoca in cui la politica è fatta per blocchi contrapposti. È così la politica spagnola, ed è così anche, sta diventando così anche la politica catalana, pure una politica che normalmente era molto piena, insomma, di soggetti di riferimento, molto plurale, e lo è stata anche quella spagnola fino a un po' di tempo fa, si sta molto semplificando come quadro, sta molto ritornando l'idea di un bipartitismo. Credo che questa cosa abbia funzionato anche in Catalogna, e ha funzionato su una destra che comunque c'è una componente spagnola, e c'è invece una componente di destra che è squisitamente catalana, che è questa cosa del ritorno di convergenza. Allora, io non so se il process è finito, cioè mi sembra pure una domanda che poi fino a un certo punto ha senso. Se intendiamo il process come quella stagione di lotte che è data dalla sentenza delle statute, che quindi lo taglia, fino almeno al 2021, cioè quindi fino almeno a tutta la politica degli indulti, quindi considerando, mettendo dentro il culmine del 2017 con il referendum dell'1 ottobre e la dichiarazione di indipendenza, il processo fatto nei confronti dei nove indipendentisti catalani, tra cui Oriol Junqueras, è condannato a 13 anni di carcere e se ne è fatti quasi 4 in galera, mentre l'altra parte di governo stava in esilio. Ecco, questa stagione qui per certo è conclusa con quelle lotte, è conclusa con quel culmine del 2017, è conclusa anche con una sconfitta, perché il 2017 si conclude con una sconfitta. E che non significa, allora, che il processo possa essere concluso, non significa che l'indipendentismo è concluso. Certo. L'indipendentismo esiste, non è la maggioranza in questo momento, almeno così elettoralmente si vede, però è pur sempre oltre il 40% del voto, quindi è molto presente, una componente importante, ed è un movimento che nel 2017 viene sconfitto, perché i capi vengono messi in galera o in esilio o una parte se ne ritorna via, ci sono appunto le condanne all'indipendentismo e c'è il commissariamento delle istituzioni catalane. Quindi, e che non significa, è una battaglia di un lungo percorso, come loro dicono, non lo so, può darsi, però comunque quella fase lì si è conclusa con una sconfitta. E quindi io credo che in questa logica di blocchi contrapposti c'è anche una semplificazione all'interno dell'indipendentismo. L'indipendentismo ha avuto il suo elemento di forza, di grande interesse negli anni, insomma, nel 2016-17, 2014, insomma, nei primi anni delle manifestazioni. Fino al 2017, fino al primo ottobre del 2017, che io considero, ho sempre considerato fosse una grande manifestazione democratica di espressione libera e pacifica. Ecco, fino a tutto quello è un grande movimento di massa che travalica i partiti, quindi è un movimento che ha una componente democratica molto forte al suo interno e ha anche una componente progressista forte al suo interno. Se ci ricordiamo, quando c'era il 15M, il movimento del 15 maggio in giro per la Spagna, a Madrid soprattutto, e in Catalogna, Plaza Catalogna, c'era il 15M, c'è un punto su cui il movimento del 15M e l'indipendentismo si parlano, ed è sul tema democratico, ed è sul tema del diritto a decidere. Quindi quello è il terreno, diciamo, comune democratico che mette insieme molta più gente oltre l'indipendentismo, che è quello per cui si è sempre detto che in Catalogna un referendum di autodeterminazione era una cosa voluta dalla gran parte della società catalana e della politica. È vero che queste elezioni cambiano anche morfologicamente all'interno l'indipendentismo, primo perché non c'è più un movimento di massa, e questo cambia le condizioni dei partiti, non c'è nulla da fare. Il movimento di massa non c'è più in piazza, non c'è più mobilitato e nulla. Esquerra perde pesantissimamente, la CUP perde, insomma, diventa poco rilevante, e riviene fuori invece tutti, diciamo, i tic dell'antica convergenza, che sono fino al giorno prima delle elezioni, quando Jordi Pujol si riferisce alla sua storia per sostenere Carles Puigdemont. Certo. Paola, un tuo breve intervento, magari anche raccogliendo alcune delle considerazioni di Marisol, e poi facciamo una piccola pausa musicale. Allora, io diciamo due cose. Devo dire che Marisol, ma questa non è la prima volta di cui ne parliamo, io credo viceversa, diciamo, che i legami fra il 15M e il Procés siano veramente come dire, pochi. E anzi, uno potrebbe pure dire che, come dire, che in qualche modo il processo è anche una risposta al 15M, no? non, perché pure lì, se vogliamo raccontarci che il processo è stato soltanto un grande movimento di massa, ce lo possiamo pure raccontare, però la cosa che non dobbiamo omettere, secondo me, perché non c'è dubbio che c'è la gente in piazza, però uno non può omettere il fatto che ci sia stata anche una scommessa istituzionale. Cioè, non è che il Parlamento di Catalogna o il Governo della Generalitat, siccome sono delle istituzioni regionali, sono meno istituzioni. e uno si deve ricordare pure che lo spostamento, diciamo, verso posizioni sempre più sovraniste o indipendentiste di convergenza, per l'appunto, che è quello che in qualche modo dà una dimensione istituzionale e molto più grossa a questo movimento, si verifica proprio in opposizione a quello che sta accadendo a Piazza Catalogna. Quindi credo che questo tema, io credo che vada a, insomma, uno ne deve tenere conto. Due cose più veloci e più brevi. Secondo me la tenuta o addirittura, come dire, il recupero del Partito Popolare è una questione ideologica sul, non tanto per le questioni, diciamo, relative all'indipendenza o all'amnistia, ma relative, come dire, alle questioni socio-economiche. Io credo che ci sia una parte dell'elettorato che, per esempio, nella città di Barcellona può tranquillamente votare Trias alle comunali di Barcellona e poi votare il Partito Popolare alle elezioni regionali. E un'ultima questione sul voto di Ciutadans. Prima Marisol diceva che Ciutadans è un partito di estrema destra. Io non entrerò, diciamo, in questa questione, perché, beh, insomma, sarebbe lungo e anche tedioso. La cosa però che so è che quella crescita enorme, diciamo, che fa Ciutadans nel 2017 non dipende dal fatto che la gente improvvisamente diventa estrema destra e vota Ciutadans. Dipende semplicemente dal fatto che in quella congiuntura Ciutadans ha torto ragione. Io puoi immaginare che le mie simpatie, diciamo, per Ciutadans siano veramente negative, come dire, non esistano, però in quel momento molta gente ha creduto che Ciutadans fosse lo strumento più, come dire, più utile per frenare quello che stava accadendo dopo l'ottobre del 17. E questo, come dire, fa sì che anche discutere su dove va a finire il voto di Ciutadans sia un po' più complicato, perché viceversa io penso che una parte significativa del voto di Ciutadans in Catalogna non sia finita tanto al Partito Popolare, ma sia finita in misura maggiore al Partito Socialista, credo. Beh, è un dibattito interessante, sicuramente poi anche le analisi post-elettorali sul voto ci aiuteranno a capirlo meglio. E andiamo a fare una piccola pausa musicale e ci andiamo ad ascoltare Trof Amra. Lei è una cantante maltese residente da tanti anni in Catalogna, a Barcellona. Tannina è il brano che vi proponiamo, tratto dal suo nuovo album Vegad Zgar. Spero di averlo pronunciato correttamente. Thank you. Lei è Trof Amra, Tannina, il suo nuovo brano. Ritorniamo qui in diretta con Paola Locascio e Marisol Brandolini per parlare appunto di elezioni catalane, governo ci sarà o non ci sarà, la stabilità a Madrid. Ecco, insomma, prima si accennava sulle possibilità, no? Un governo socialista in minoranza, più difficile un tripartito con Esquerra e i Comuns Sumar, oppure addirittura una ripetizione elettorale. Ecco, Paola, parlerei e comincerei da te su questo per capire non tanto e non solo se ci sarà un governo in Catalogna o si ritornerà al voto ad ottobre, ma soprattutto anche tutto questo che impatto ha e avrà sulla stabilità del governo Madrid. Allora, io credo che in realtà negli ultimi tempi siamo stati abituati ad avere dei tempi alla politica velocissimi e viceversa io non ho così chiaro, diciamo, che gli impatti su quello che accadrà sia, diciamo, a livello catalano, se si creerà un governo oppure no, ma anche sulla stabilità del governo spagnolo dipenderà da tante cose e probabilmente non lo sapremo subito. In ogni caso non lo sapremo prima del 10 giugno, credo, perché come dire, le elezioni europee in qualche modo pure diranno qualcosa, no, sulla forza dei socialisti, sulla forza dei popolari, insomma dipenderà molto pure da se il Partito Socialista uscirà bene o male da queste elezioni, europee. In realtà, per quanto riguarda, diciamo, la stabilità del governo spagnolo, dipenderà pure dal Partito Popolare, nel senso che o diciamo, si normalizza questa idea di collaborare con l'estrema destra a livello europeo. E ovviamente, come dire, ci sono segnali da questo punto di vista, e allora dentro questo, come dire, questo nuovo contesto il Partito Popolare può con una certa come dire, con una certa capacità tentare di governare con Vox e addirittura, diciamo, con altre forze, anche se qui, come dire, ci sarebbe il dubbio su cosa farebbero alcune forze, come dire, di centrodestra nazionaliste e periferiche, oppure, diciamo, lo scenario di un cambiamento di governo mi sembra difficile, perché se Vox, diciamo, tiene e Vox, diciamo, ancora in Spagna, speriamo per lungo tempo, diciamo, non ha o non ha avuto fino adesso, come dire, la capacità di influire sul governo statale, è difficile che il Partito Popolare possa tornare a governare. Però credo che molte di queste risposte o molte di queste cose le sapremmo non prima del 10 giugno. Marisol, passo a te la palla, aggiungendo, insomma, anche per ricordare ai nostri ascoltatori, la maggioranza attualmente a Madrid si basa ovviamente sui voti degli indipendentisti catalani, i 7 deputati di Esquerra, i 7 di Junts, oltre ovviamente al Partito Nazionalista Basco e a Cebildu, però diciamo che vivono una situazione diversa da quella catalana, per capirci, per semplificare un po'. Ecco, insomma, secondo te gli indipendentisti manterranno l'appoggio al governo, succeda quel che succeda con la formazione dell'esecutivo qui in Catalogna, oppure no? Ma forse non dipenderà tanto solo da quello che succederà in Catalogna, dal governo in Catalogna. Vabbè, intanto è certo che le elezioni europee saranno molto rilevanti a questo proposito. Se si crea quest'asse tra le destre e le estreme destre in Europa, credo che sarà un problema molto, molto serio. Il Partito Popolare è un partito del PP, del Partito Popolare Europeo, che ha già sperimentato un'alleanza con, anche se a livello locale, con l'estrema destra, e quindi dovrebbe essere, diciamo, d'accordo per fare questo tipo di sperimentazione. Quindi vedremo. In questo senso la Spagna potrebbe essere l'ultimo paese importante e grande in cui comunque continua ad esserci una sinistra importante e un partito socialdemocratico di rilievo, e questo appunto lo vedremo. Per quanto riguarda direttamente l'influenza degli indipendentisti sul governo nazionale, io credo che sul governo centrale, io penso che il tentativo di Puigdemont di candidarsi sia del tutto legittimo, perché siccome abbiamo sempre sostenuto, almeno io, che le maggioranze si fanno in Parlamento, se c'è una maggioranza che lo vota diventerà presidente. Io non credo che ci sia questa maggioranza, perché non credo che appunto che socialisti catalani siano disponibili a sacrificarsi in nome di nessuna governabilità spagnola, che peraltro non si comprenderebbe, e non credo che Pedro Sanchez pensi di immolare Illa dopo questo risultato per fare l'asse preferenziale con Puigdemont. Ha detto di no, ma io sinceramente credo che non lo farà. Il problema è anche capire che cosa succederà dentro Esquerra Repubblicana, perché la batosta di Esquerra è veramente molto molto importante. Adesso la base discuterà se sostenere che tipo di governo sostenere, e quindi se sostenere dall'esterno un governo Illa, se sostenere Puigdemont, eccetera eccetera, e quindi lì vedremo. Il governo spagnolo sta un po' sospeso da troppo tempo, purtroppo, perché ci sono state elezioni una presso all'altra, e quindi non abbiamo la finanziaria, quest'anno è saltata per questa ragione, grazie al fatto che si è tornato a votare in Catalogna, ed è certo che se vuole, per andare avanti, ha bisogno di approvare almeno la legge di bilancio, almeno per l'anno prossimo. Non credo dunque che sia a rischio il sostegno degli indipendentisti in quanto tali al governo, all'esecutivo Sanchez, perché l'alternativa è comunque molto molto peggiore, è assolutamente peggiore, e finché l'alternativa sarà quella con Vox, anche una parte dei partiti conservatori, però democratici, come il Partito Nazionalista Vasco, il PNV, non si presteranno mai, insomma, ad un'operazione di questo tipo. Quindi ecco, è una situazione molto che si muove continuamente, e bisogna vedere in primo luogo cosa succede alle europee, e poi poco a poco togliere le foglie al carciofo e vedere che cosa rimane alla fine di tutto. Sì, insomma, sono settimane importanti. Un'ultima battuta, Paola, ti passo la palla, ma aggiungo anche una cosa, se puoi dire qualcosa su questo, poi Marisol, se tu anche vuoi intervenire al riguardo, avanti tutta, che riguarda la figura di Pedro Sanchez, insomma, soprattutto in quest'ultimo mese, no? I 5 giorni in cui ha dibattuto, lasciando la Spagna quasi in vilo, quasi senza notizie, se dimettersi oppure no, per insomma la macchina del fango contro di lui, contro la sua famiglia e sua moglie Begoña Gómez in primo luogo, ma anche lo stesso governo e i membri del governo di sinistra in questi ultimi mesi da parte della destra e dell'estrema destra. Ecco, insomma, Sanchez ne è uscito rafforzato, ne è uscito più debole? Ecco, cosa ne pensi, Paola? E poi magari anche tu, Marisol, se vuoi un'ultima battuta a riguardo. Ora su Sanchez voglio dire semplicemente una cosa molto molto molto breve sulla questione Esquerra Repubblicana. Non c'è dubbio, e credo che cominceremo a sapere se Esquerra Repubblicana, diciamo, è entrata in una fase, come dire, di impazzimento, per cui possiamo aspettarci qualsiasi cosa oppure no, se diciamo i dirigenti diranno cosa voteranno nella famosa consulta, certo, su cosa fare, perché certo, Esquerra Repubblicana, diciamo, a volte ha avuto, secondo me, un partito appunto assembleare, eccetera eccetera, a volte i dirigenti la cosa che hanno fatto è che non hanno detto cosa avrebbero votato, quindi diciamo non c'è stata un'assunzione di responsabilità. Su questo vedremo. Sulla questione Pedro Sanchez, io diciamo avevo avuto molti dubbi sulla questione dei 5 giorni e su come, diciamo, poteva svolgersi questa cosa. Poi certo, viene Milei e dice quello che dice, e ovviamente, insomma, Pedro Sanchez è capace in qualche modo di, no, di catalizzare questo simbolismo del dirigente della sinistra europea, diciamo, contro l'ultradestra. E questa è una cosa che ovviamente, diciamo, secondo me giocherà a suo favore. Sicuramente le elezioni catalane gli ha funzionato, comunque ha mobilitato il suo elettorato. Non so se sia la questione di Milei e anche probabilmente la questione del riconoscimento della Palestina possa avere uno stesso effetto, come dire, di mobilitazione sull'elettorato socialista. In vista delle europee, certo. Marisol, un'ultima battuta telegrafica se vuoi a riguardo. Sì, insomma, io credo che Sanchez c'ha un grande tirone elettorale, come si dice, no? Ossia, attira moltissimi voti. Questo lo sostengono tutti in Catalogna o dovunque. Dove va lui, in realtà prende voti. E questo è successo anche nelle elezioni ultime. Bisogna dire che poi molto, molto ben accompagnato anche da José Luis Rodríguez Zapatero, che ormai è Certo. molto presente, pur stando fuori, diciamo, dalle dinamiche di partito, però è molto presente nel bagaglio ideologico, nel convincimento, nella diffusione, nella mobilitazione. E questo è un fatto molto, molto interessante. Ma insomma, lui 5 giorni li ha. Io penso che sia stato un atto emotivo, ecco. Penso che la lettera sia stata che ha scritto sia stata così. A un certo punto ha dimostrato di essere umano e non ha retto più. E ha fatto una cosa, ha fatto un gesto per vedere se la risposta del suo partito e dei suoi simpatizzanti lo richiedeva ancora a gran voce. Questo è successo e lui è ritornato in sella. Sulle elezioni catalane l'effetto è stato positivo, ma chissà se è stato positivo quello, è stato positivo poi il suo rientro così baldanzoso. Certo che la macchina del fango non è una novità, non è una cosa che si scatena Certo. contro il PSOE, contro Begoña Gómez o contro Sánchez. È una cosa che si è scatenata da anni contro Podemos, contro gli indipendentisti, la costruzione di dossier falsi, eccetera, eccetera. È una cosa che è da molti anni e che non è stata sottovalutata. Ecco, se si fa un atto del genere, poi bisognerebbe insomma, fare delle proposte anche in termini legislativi che possano cambiare le dinamiche del fango e possano portare un po' di pulizia, credo. Eh sì, tante sono le questioni davvero sul tavolo, tante sono le incognite. Vedremo innanzitutto come andranno le elezioni europee e nei giorni successivi, a partire soprattutto dal 10 di giugno, la formazione dell'ufficio di presidenza del Parlamento catalano e da lì, insomma, capiremo che cosa succederà. Ringrazio Paolo Locascio e Marisol Brandolini che ci hanno accompagnato quest'oggi. Grazie davvero e a prestissimo. Grazie a voi. Grazie a te, Simone. Ciao. From outside, throwing shakes. elezioni europee, tutti i leader in campo con le loro proposte, dal premierato al tabaccaio di Italia Viva, che sta percorrendo a piedi 300 km per fare la spesa, e ci sta riuscendo, fino al mini sottomarino pilotato dal presidente della Repubblica di Polonia, Duda. Il volo, il giovane trio italiano famoso in tutto il mondo, in realtà compie 76 anni in uno dei momenti più difficili della sua storia. Uno dei treni rovescia i vagoni di un treno, 150 km ad est di Bratislava. L'esperto, una legge per suonare la chitarra in pubblico. Macron, vi prenderemo, saremo durissimi. Chico Forti esce dal carcere di Miami dopo 24 anni, atteso nelle prossime settimane, ritorno in Italia per incontrare Xi Jinping. Cerimonie ma anche traffico in tilt. Tajani, la pace è nelle sue mani, nascosta in un container di prodotti alimentari. Giorgia Meloni interviene per la prima volta sull'inchiesta di Genova. Aspettare le risposte di Toti mentre va a suonare la chitarra in un pub. Dei cani morsicatori dicono serve una soluzione politica. Giro di vite del Vaticano, solo il Papa potrà stabilire se i più grandi calciatori italiani sono soprannaturali. Foto compromettenti. Massimiliano Allegri non è Roberto Baggio, l'allenatore toscano esonerato, duro comunicato della Juventus, possibile la scomunica. Sulla panchina bianconera, in arrivo il Panariello. Sono tornate anche le ultimissime, ci riportano anche subito alle elezioni europee, avete sentito insomma una realtà che gli altri media non ci mostrano. Banzo, siamo un po' agli sgoccioli di questa puntata, però un commento forse almeno sull'ultima notizia credo che ci sta. Sì, beh, d'altronde Steven, il calcio è un po' l'unica religione che c'è rimasta, quindi ha senso che il Papa cerchi di appropriarsene stabilendo l'origine sovrannaturale dei più grandi calciatori italiani. E sono curioso di sapere i risultati, non so quando il Vaticano li comunicherà, né in che modo, però vorrei saperlo. E secondo me Roberto Baggio, oltre a non essere Allegri, potrebbe essere sovrannaturale. Vabbè, insomma, lo scopriremo solo vivendo, come diceva il saggio. Ascolta, ci siamo ascoltati un brano prima degli Shellac, Girl from Outside, e c'è una ragione, spiegamola un po' ai nostri ascoltatori. È una ragione purtroppo molto triste, perché come avrete sentito il 7 maggio è venuto a mancare Steve Albini, leader degli Shellac, anima degli Shellac dal 92, insieme a Bob Weston, Todd Trainer, sempre la stessa line-up. E questo album, To All Trains, dal quale Girl From Outside è tratto, doveva uscire il 17 maggio, quindi 10 giorni dopo quella che purtroppo è stata la morte di Steve Albini. E non si può ricordare in così poche parole un personaggio tanto importante nella storia della musica alternativa, quindi non ci provo nemmeno. Un brevissimo aneddoto: gli Shellac suonavano da 16 anni al Primavera Sound di Fila, qui a Barcellona, e l'organizzazione del festival ha deciso di dedicargli un palco. Dovevano esserci anche quest'anno, ma è ovvio che purtroppo non ci saranno. E quindi, niente, questa Girl From Outside è anche un modo per ricordare Steve Albini, che ci ha lasciato prematuramente a 61 anni, non guardando al passato, ma con una canzone nuovissima che è uscita una settimana fa. Eh sì, è stata una ottima scelta. Noi siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata di Zibaldone. Per salutarci, come sempre, l'ultimo trago, una canzone italiana interpretata in spagnolo da chi quest'oggi, Banzo, e che canzone? Da Los Caramelos, Steven. Tu mi chiederai chi sono, ecco. E la verità è che è molto difficile dirlo, perché sono un gruppo estremamente misterioso. Il loro leader si chiama Charlie Mysterio, infatti, ma si sa pochissimo di questi Caramelos. Effettivamente sono di Madrid, e la canzone che andiamo a sentire è una cover di Franco Battiato, per ricordare l'anniversario della terzo anniversario della morte, che è stato il 18 maggio del 2021. E si tratta di una cover della famosissima Centro di Gravità Permanente, molto bizzarra, come sentirete, e è tratta da quello che per molti anni è stata l'unica pubblicazione discografica dello Caramelos, che si chiama 1988-1999, quindi un'antologia di 29 pezzi composta in questo decennio, uscita nel 2002. E beh, insomma, Battiato, se lo prendi di petto, insomma, ti divora, e quindi l'unico modo è stravolgerlo, e lo Scaramellos lo fanno molto bene, come sentirete. Adesso andiamo a scoprirlo. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo. Buon venerdì sera a tutti. Fate l'amore con il sapore, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.56 tutti i venerdì diceva: non facciamo mai anticipazioni sulla prossima puntata, ma venerdì prossimo sarà con noi sicuramente il tabaccaio di Italia Viva che avete sentito prima. Sicuramente. Ciao Banzo, ciao a tutti, buona centro de gravedad permanente, los caramelos. Contando entre bromas, manojos de ortiga.